ma perché tu ti sedi proprio qui accanto a me, io così mi alzo in piedi arrossendo perché io comincio a pensare, ai tuoi giochi con te, a lei che mi ha lasciato per venire con te, guarda chi m'ha tradito, guarda, uno che mi vuol bene, il mio migliore amico mi gettò tra le pene, voi siete liberi da me. Io comincio a pensare, comincio a pensare ai tuoi giochi con te, alle che mi ha lasciato per venire con te. Guarda chi m'ha tradito, uno che mi vuol bene, il mio migliore amico mi gettò tra le pene. Voi siete liberi da amare, voi siete liberi di fare quel che a voi fa piacere, quel che a voi fa piacere, quel che a voi fa piacere. Non ti posso affrontare, però so che tu credi, però so che tu credi.